L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma porca di quella puttana troia, ma la finite di dire parolacce alla radio, che in macchina c'ho i bambini e mia moglie mi fa due palle così che devo cambiare stazione perché i bambini sentono le parolacce. Forse devo cambiare moglie. Peppe, siamo in coda a Bologna per ascoltare Dolce di Peppers, ma noi si ascolta la zanzara, non ci importa niente di loro. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Beh, io vedo molto negativo, caro Parenzo, per il signor Corona. Per il signor Corona. Io adesso, per carità, non esulto perché va in galera, perché torna in galera. Non è che sono contento, non è che dico godo. Qualcuno gode, molte persone godono. Godono per la sbruffoneria, godono per le finte parole, capito? Perché uno può anche essere un bandito. Però, a petto all'infuori, non è che vai a dire io sono cambiato, farò tutto in maniera regolare, poi godo per una cosa, però c'è solo una cosa per cui godo, che è la campagna di stampa che fecero vergognosa per la cosiddetta liberazione di Corona, perché dicevano ma tanto per 4 foto vanno a mettere in galera proprio lui. Beh, c'è una congiura, c'è un complotto, l'hanno voluto punire, eccetera eccetera. Dai, su, una cosa ridicola. Comunque, sentite che cosa diceva a giugno scorso Corona. Per fare qualcosa di positivo, per essere ricordato non per le belle donne, le macchine, i soldi e tutto quello che è, ma per aver fatto qualcosa di importante che lasci il segno. Credo che nei prossimi 5 anni si sentirà parlare di me nel modo giusto, anche a livello istituzionale. Grazie. A livello istituzionale. Vorrei sottolineare, oggi è tornato in galera. Ma non lo dico con soddisfazione, Non è che lo dico con soddisfazione, però... Gli hanno trovato 1,7 milioni là nella, no? Nascosto, nella, nascosto, infrattato, vabbè. A casa della sua assistente, là in galera pure lei. Sono diventato perfetto, disse a maggio. Senti, io ho guidato senza casco, ho guidato senza patente, non ho mai fatto una fila, tutto quello che era istituzionale l'ho sempre, diciamo, odiato. Ma oggi come affronti queste cose? Oggi, la fila al supermercato? Oggi sono diventato perfetto. Sei perfetto. Ho imparato le regole, ma non sono cambiato. Io rimarrò sempre quello che sono nella mia anima. Ho imparato le regole. Dai, su, ragazzi, a me quello che dà fastidio è questa roba qua. Che c'è stata una santificazione di Corona negli ultimi mesi, da quando è uscito dalla galera e da quando è andato da Don Mazzi. C'è un ma è cambiato, interviste in televisione, eccetera eccetera. La realtà sembrava, ma però, da ma sembrava cosa sembrava cosa? Uno che vuole cambiare, chance, no? Uno che vuole cambiare, uno che esce dal carcere, che dice che è dipendente dalla cocaina, che c'ha un sacco di problemi, che il carcere l'ha quasi distrutto, che ha perso tutti i denti, eccetera. La prima cosa che fa è tutto quello che hai, anche i soldi in nero, quello che è, ti consegni alla giustizia, no? Ti consegni mani e piedi alla giustizia. Don Mazzi. E che dice Don Mazzi? Corona è cambiato, gennaio. Io sono stato e ho sempre seguito Corona, l'ho sempre seguito, sì, non rompetemi le palle adesso, ascoltatemi, e l'ho sempre seguito e vi devo dire che è profondamente cambiato. Non era complicato dirlo, però insomma, di fronte alla campagna che ci fu prima della liberazione di Corona, il sottoscritto, tu eri dall'altra parte come al solito dalla barricata, Parenzo. No, come al solito ero, perché dico che bisogna dare una possibilità a tutti. Sì, dall'altra parte della barricata, perché dicevi sì, vabbè, ma è esagerato, 14 anni, è esagerato, 13 anni. Mi sembrava io sono stato uno dei pochi, a dire ragazzi, qui c'è un cumulo di pene. E ci sono dei privilegiati come Corona che hanno dietro la stampa, eccetera. Ci sono dei poveracci invece che marciscono in galera. È un privilegiato rispetto agli altri. Lo dicevo. Ma ti ricordi quella cosa clamorosa? Ti ricordi quando le iene scoprirono che adesso, pochi mesi fa, Corona si faceva pagare in nero le serate nonostante fosse ai servizi sociali? Sì. E non mandarono in onda il servizio in cui era chiaro questo nero che faceva, perché Costanzo doveva fare l'intervista. Ho parlato con Fabrizio, allora, ok, però la facciamo in questa modalità: io le faccio il contratto a prezzo pieno dicendo che lei mi dà il 50% di anticipo e il restante 50% me lo darà alla consegna il giorno dell'evento tramite assegno bancario. In realtà poi quando ci vediamo facciamo le nostre cose, annullerò il contratto e glielo rifarò in modo corretto, cioè con il bonifico di solo 3,5. Le va bene? Mamma mia, ragazzi, ma perché i magistrati, per esempio, non si sono fatti dare già all'epoca, quando era? Prima dell'estate. Prima dell'estate, era uno degli ultimi servizi delle Iene dell'anno scorso. Perché non si sono fatti dare la cassetta per esaminarla, a prescindere magari dal fatto che andasse in onda o no? Ma che hanno fatto? Dai, su, non che, lo sappiamo. E che in realtà sono stati fin troppo clementi col signor Insomma, Corona. 14 anni che hanno dato. No, ma adesso, in quest'ultima fase, fin troppo pazienti. Allora, uno di quelli a cui hanno tolto il vitalizio, perché è condannato oltre i 2 anni, appena definitiva, è il signor Cito. Te lo ricordi tu? Sì, come no? Quello mezzo fascista, moderno. Mezzo fascista, sì. Beh, insomma, sì, ma se ormai non si può neanche più chiamarlo. Ma sì, cos'è? Giancarlo Cito, mezzo matto, no? Fascista. Giancarlo Cito, insomma. Beh, è stato sindaco di Taranto e dice razzista, che... Razzista, si può dire almeno questo, ma no? Ma non credo che sia razzista. Una persona buona, Un coglione, dai. Questo... Un coglione, dai, diciamo la verità. Su questo non ci piove proprio. Con lui, sindaco di Taranto, non c'erano scippi a Taranto. Non c'erano scippi, si ho cito. Sono contagiani, non vogliono che diamo il vitalizio in perché generale. Perché guardi il sottoscritto, perché è successo quando io ho fatto il sindaco, l'unica città d'Italia che non aveva scippi, rapine e furto, si chiama Taranto. La città di Taranto era al 4º posto come città venita. Ed ero io il sindaco. A questo signore hanno tolto il vitalizio perché ha delle condanne superiori ai 2 anni. A me, secondo Bene. Me, dovrebbero toglierlo a tutti il vitalizio, naturalmente. Però hanno fatto questa roba qui. Prendiamoci questa roba. È ingiusta, perché è ingiusta. Paradossalmente ha ragione Cito, perché non si capisce bene. Poi se uno viene riabilitato, riottiene di nuovo il vitalizio. Una vergogna. Comunque, bene pure questo, che hanno tolto il vitalizio a questi signori. Cito, sì, è giusto. Senti, Cito contro Trefiletti. Vabbè, non è che puoi fare la cosa ad personam contro Cito. Dipende, dai. Sì, dal tipo di reati. Vabbè, per cui uno è condannato. Se uno è condannato per un reato che vai oltre la legge, che vuol dire? No, io dico che secondo me la legge è giustissima e va bene così. Senti Cito Trefiletti, senti. Però dipende dal reato. Innanzitutto, dal 2007 non si chiama più vitalizio, è pensione. E sai te che differenza che cambia, fa sul privilegio? Poi dica quanto prenderei di pensione! Dica quanto prenderei di pensione! Ma mi siete da bene! Lo dico! Allora, io sono pensionato! Queste sono legge dello Stato! Ho pagato per 40 anni! Sono legge dello Stato! Io non rubo lo fallo Stato, show, è chiaro? Fallo show! Non parlare di rubare, perché sennò ti faccio arrivare la scarpa in testa! Calmati! Senti ancora sulla D'Urso, contro la D'Urso, che mi hanno assolto, cosa che non è vero ovviamente. Momento! No, Cito, perché però, scusa, io dopo 25 anni sono stato assolto! Sì, perfetto. Uno, non urlare. Secondo... non è che urlare! No. E non dite stupidate! No, io non dico stupidaggini. Oh, calma! Come si permette? Io dico quello che è stato. Tu sei stato condannato nel 1997. Cucia, ma il traffico durante la zanzara dovrebbe diventare un reato penalmente perseguito. La zanzara. Sì, io vedo molto negativo. Come ha fatto a vederlo? Ma... scusi. Le carte, no, ho messo sulle carte. il signor Ruggero. Mamma. Il mago Ruggero. Ci vorrebbe, fatto. Io vedo molto negativo anche per il signor Trump, purtroppo. Signor Trump. Meno male, va. No, finalmente. Vedo negativo, ho detto. È una previsione. Vedo speriamo, negativo. Speriamo. Perché purtroppo sta chinando la testa. Ma invece di andare all'attacco, replicare. Ma di cosa? Ha scritto delle porcherie. Nel 2005. Ma tratta, ti dà l'idea della personalità. Vabbè, no? Perché c'era bisogno di queste cose qua adesso. Beh, c'era bisogno di sentirle. Ma anche un paese libero come gli Stati Uniti ha fatto piuttosto scandalo. Nel 2005 il signor Trump disse una cosa molto semplice, ma è anche la fotografia della realtà, che se uno è VIP, tradotto, ricco, potente, con un ruolo sociale importante, eccetera, è più facile avere donne. Ma non l'ha detto proprio così. Ma poi. Come no? Sì, ha detto comunque, tocca gli prendigli la figa in mano. Ma è una roba di una volgarità. Ma lascia, ma è dal 2005, ma ha detto le peggio cose. Le persone Trump rimangono quello che sono. Ma Trump negli anni ha detto le peggio cose, esattamente quello che disse altre 4.000 volte. Adesso è saltato fuori, è un paese liberale e libertario come gli Stati Uniti, ritiene una mamma parte, mia, poi vedremo, che non sia una persona adatta a governare un paese così importante. Non sentire Denilo quelle cazzate di questi attoruncoli, no, attoruncoli no, in realtà. In questo caso no, attoruncoli no, però attori che ma poi... Ma che anche Ferrara l'ha definito maiale da spogliatoio, giustamente. Si sapeva, che è una disgrazia. Altro che, perché ha distrutto il politicamente scorretto. Cosa vuoi essere politicamente scorretto oggi? Ma nel 2005 ha detto... Ma oggi non ha più senso, oggi il politicamente scorretto è essere educati invece. Oggi sì, anziché dire le parolacce, politicamente scorretto oggi è essere educati, perché siete tutti maleducati, tu, Trump, tutti gli, un mondo di maleducati. Invece la buona educazione oggi è politicamente scorretta. Ma io non voglio essere politicamente scorretto, me ne fotti. Io dico quello che penso, punto e basta. Denilo, sentimi. Il coglione di Trump, maiale da spogliatoio. I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a dog, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry. Vabbè. Porco cane, artista di stronzate, non paga le tasse, un idiota, eccetera, eccetera. Alfredo da Caserta, vai Alfredo, vai. Ciao ragazzi. Dimmi. Niente, praticamente volevo chiedere al signor Vendola, magari mi sta ascoltando. Signor Vendola, che ha fatto? Ha fatto battezzare il figlio in chiesa, sì, da un prete, vicino a Latina. E perché? Vabbè, ha voluto farlo battezzare, ha trovato un prete che lo battezza. Capito, però tutto, cioè lui ha avuto il figlio... Con il metodo che la Chiesa definisce quello più anti contro natura. Sì, vero. Vai là e gliene importa lei? Il figlio, cioè da gente che magari. Ma che gliene importa lei? Pensa, vabbè, questo pensi, fa un commento su una cosa che ha letto. Pensi che vuol lei dire? Se è un buon cattolico o no, pensi ai fatti suoi. Non ho capito, giudicare quello che fanno gli altri. Non ho mica capito. Cosa c'entra? Quello è un uomo pubblico e fa una cosa che, come dire, che è stata riportata. No, e... ma. Parenzo, cioè non è che una questione di. Non è una critica vera e propria, è proprio, cioè, mi sembra proprio controsenso. Non è che. Allora, è vero che non è tanto la questione di essere omosessuale o no. Cattolico lui, peraltro. No, sì, d'accordo, Vendola. Però fa una cosa, questo figlio l'ha avuto in un modo che la Chiesa Cattolica definisce un obbrobrio. Cioè. E non so. Allora, questo prete, questo prete, il battesimo non si rifiuta questo nessuno, prete battezza il figlio di Vendola, che è frutto di quello che la sua chiesa, un sacramento di quello che rifiuta, la sua chiesa definisce un proprio. Ma dicolo, non è vero, perché io è un figlio dico... di Dio. Guarda, che nel battesimo, io conosco un po', quella, quel ramo d'azienda lì, quella religione lì, ovviamente. E ti assicuro che il battesimo non lo si nega a nessuno, neanche ai ladroni. Ma io non sto dicendo che bisogna negarlo. Quindi non ha fatto una cosa contro natura, anzi, ha provato quel bambino, ora è dentro la chiesa. Ma ho capito, ma è il frutto di una roba che la chiesa definisce una pratica nazista. Ma non interessa. La Chiesa condannerà come è nato, ma una volta che è nato, il fatto che ci sia il battesimo, la Chiesa lo giudicherà null'altro che bene, sai. Vabbè, questo, mi sembra poco informato questo Marcello qua. Marcello da Palermo, vai. Pronto? Pronto, Odì. Dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo, vi stimo. Intervengo per parlare di Corona e del signor Mazzi. Sì, Don Mazzi. Don Mazzi. Sì. Allora, prima di tutto dovrebbero arrestare Don Mazzi, buttare le chiavi, perché adesso... è un magnaccione. Perché? È un magnaccio. Perché è un magnaccio? Spiegami. Perché è un magnaccio? Idiota. Perché si infila dentro tutti sti stronzi magnaccioni cocainomani. Ma stai tranquillo, stai tranquillo. Ma ho capito, ma questo lui è fatto, sta lì in teoria per salvare quelli che hanno dei problemi. Ma non salva nessuno, dovrebbe salvare se stesso. Seconda ma perché salvolo. Ce l'hai tanto con Don Mazzi? Spiegami, perché? Perché prende per il culo la gente. In che senso? Scusami, va in televisione e dice che lui salva con quella vocina, salva questo falsario stronzo di Corona, che tra l'altro è pure siciliano. Vabbè, cosa c'entra che è siciliano? Ma perché? Ma è uno stronzo. Ma la cosa che mi preme a dire è la cosa più grave, che quella stronzetta che parlava con l'accento milanese elegante, se fosse stata nel sud sarebbe... Chi? Quella che diceva che faceva le fatture vere e poi faceva le fatture al 50%. Ah, quella vabbè. Che la metteva nel culo allo Stato e a non tutti è l'unico, noi che paghiamo non è, le tasse. Non è l'unico, diciamo, non è l'unico in Italia che Corona ha il peso dei soldi in nero. Ma avete notato la vocina di questa signora delicatissima? Sì, guardi, poi le strappo tutte e le faccio il 50%, come se fosse una cosa normale. Stava parlando diciamo intercettato con uno che poi con uno con cui doveva fare questa operazione. Che cosa doveva fare? Doveva parlare in silenzio? Doveva fare, fanno tutti no, puliti. Ma non sto dicendo, per me è una roba da banditi, sto dicendo semplicemente bravo, Cruciani, diciamolo, roba da banditi, non ti scaldare tanto, perché secondo me chi si scalda poi ha sempre qualcosa da nascondere, cioè, no, c'è io sempre, sono tranquillo, c'è sempre uno più puro di te che ti potrebbe poi bastonare. Sono solo emozionato di parlare per la prima volta. Va bene. Federico, provincia di Milano, vai Federico. Federico, dimmi. Non sono di provincia di Milano, sono di Milano. Sì, dimmi. Ecco, no, io volevo semplicemente ricollegarmi a che cosa? Alla trasmissione quella che c'è stata venerdì. Vabbè, ti ricolleghi dopo, vai, che adesso ci dobbiamo fermare. Fermi tutti, restate lì. Non mi deve pagare. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Ho seguito il vostro programma. E io che ho 80 anni non avevo mai sentite tante brutte parole in vita mia. Basta? Hai detto tutto? Beh, avevi detto anche che altre cose. Cosa ho detto? O volgari. Ah beh, volgari senz'altro. Volgari senz'altro. Senza misura. E veramente, veramente scurrili. Bisogna fare dei rituali per far sì che non ti cacciano, bisogna fare dei lavori particolari. Il mago Ruggero, ci ho pensato tutto il fine settimana, Parenzo, tutto il fine settimana al mago Ruggero, sì, il mago Ruggero, oltre che a Trump naturalmente, eh. Ah beh, per forza. Allora, volete ridere, Renzi? Non faccio campagna per il sì. Una cosa incredibile, eh? Come? No, ma senti, senti, senti. Io non voglio venire qui a far campagna per il sì. A me interessa che i cittadini sappiano su che cosa si vota. Ragazzi, non diciamo cazzate. È vero, però, quello che dice su Bersani. Bersani che adesso ha deciso di votare no, no, ma in realtà ha detto tre sì alla riforma, cioè ha votato più volte questa stessa riforma che adesso, certo, non vuole far passare. Questa è una realtà. Vogliono inchiappettare Renzi. Perché Bersani? Non capisco perché. A molte persone manca anche il coraggio di dire certe cose. Noi vogliamo votare no perché vogliamo inchiappettare Renzi. Vogliamo che Renzi crolli. Questo è il punto fondamentale. Beh, no, non solo, non ma solo, sì, non dai, solo. Su, qualcuno ma ritiene sbagliato il combinato disposto, legge ma elettorale, sì, vabbè, e riforma della Costituzione. Sì, qualcuno. Qualcuno, pochi. Dico soltanto che Pierluigi Bersani ha votato sì tre volte a questa riforma. Questa riforma non l'ho scritta di nascosto io a Rignano sull'Arno la sera al computer. Grillo, andate a votare con l'intestino senza cagarvi addosso. Allora, abbiamo il secondo cervello. Il secondo cervello è messo qui, nella pancia. Dovete votare con l'intestino senza cagarvi addosso. Allora, il discorso è questo. Con la pancia. Con la pancia. Guardateli in faccia. Allora, adesso dirò delle parole a difesa del povero sindaco di Messina Corinti, l'uomo che va in giro scalzo, l'uomo del no al ponte, che è stato, sì, ospite della Zanzara la settimana scorsa e che adesso viene crocifisso da un pugno di moralisti a Messina, da un pugno di consiglieri comunali e non so che altro, assessori moralisti a Messina, per aver detto delle cose su cui ovviamente si può discutere, ma che sono ovvie. Per esempio, invece di avere le prostitute per strada, il signor Corinti ha detto che è favorevole a fare dei bordelli. Naturalmente non è che lo può fare lui, è evidente. Sì. Però alla domanda di noi che siamo dei cialtroni, come è ovvio, cialtroni in senso buono, che siamo lì a fare delle domande, ma lei a Messina, se potesse, lo farebbe un bordello? Uno che deve rispondere, no. Uno sincero, uno che non mente, sì, risponde sì. Lo faresti un bel quartiere a luci rosse? Ma perché no? Perché chiaramente, bravo, è molto, bravo, meglio il quartiere a luci rosse che tutto quello che succede. Per libertà ognuno può fare quello che vuole, mentre sullo sfruttamento dobbiamo andare, esatto, ad arrestare chi sfrutta la donna. Vabbè, d'accordo, ma il bordello, se potessi aprirlo, non tu naturalmente, se potessi decidere oggi apro i bordelli e tolgo le puttane dalla strada, lo faresti a Messina? Sì, sì. Poi legalizzazione della marijuana. Ma che cosa ha detto di così scandaloso? Beh, perché questi moralisti, normale, a Messina in Sicilia l'hanno preso d'assalto in due giorni? Non è adatto a fare il sindaco. Ma mi ha detto delle cose talmente evidenti, talmente lampanti. Ovviamente si può discutere, ma sulla legalizzazione della marijuana, ragazzi, dai, la legalizzeresti la droga leggera? Ma questo non c'è alcun dubbio. E andiamo, lo sapevo. Ma su questo che non c'è alcun lo dubbio. Sapevo, lo sapevo. Bravo. Grande, grande, grande. Poi ha raccontato che si è fatto un bel cannone in India una volta. E vabbè, sono cazzi suoi. Questo non mi pare grave. Non mi pare che ha incitato la gente. Ha detto in realtà che la marijuana è meglio dell'alcol e poi in alcuni casi addirittura aiutare la Maria. Cioè la marijuana, okay, è meglio, molto meglio dell'alcol, dici, fa meno danni dell'alcol. Questo non c'è alcun dubbio. E può fare anche bene, dici, può fare anche bene. Ma muoiono per l'alcol, non per la marijuana. E può fare anche bene, dice, la marijuana in alcuni casi. In alcuni casi pure, per carità, ma non c'è da esaltare, ma è la verità. E poi la legalizzazione della cocaina. ragazzi, non si bisogna avere le palle per dire certe cose. Adesso non vorrei che si tirasse indietro, preso d'assalto da un pugno di moralisti a Messina e dintorni. Questo è uno, può fare tutti gli errori di amministrazione, non me ne frega niente. A me non interessa intervistarlo su come amministra Messina. A me che cazzo me ne frega di Messina, mica ci vivo io a Messina. Cioè, mica viviamo noi a Messina, qui parliamo a tutta Italia noi. Dunque, temi più grandi che vanno oltre Messina, no? Vanno oltre Messina. Sì. Legalizzare anche la cocaina, dai. E se lo Stato si cominciasse a spacciare cocaina sarebbe quasi meglio. Può supportare assolutamente le persone che hanno quella dipendenza. Quello già lo fa. E poi bruciamo totalmente gli affari della mafia che hanno inquinato tutte le altre cose. Ma come li bruciamo? Con la legalizzazione o no? Con la legalizzazione, ovviamente. Pure della cocaina, certo. Dici, no? Certo. Quello gli brucia completamente gli affari. Mi pare che non ci sia dubbio. Lucido, poi certo, lucido. Attacca Renzi, dice che è peggio di Berlusconi. Chiama Berlusconi Don Minchia. Questo devo dire non l'avevo mai sentito. No. Don Minchia è bellissimo. Un megalomane come lui è chiaramente il ponte, una cosa enorme, grande. Lui è quello che è Don Minchia e perciò pensa di fare le cose migliori del mondo. Sì, beh, certo. Don Minchia, stupendo. Perché in Sicilia Don è un titolo nobiliare, eh? È come dire zio a Roma, cioè Don un modo. Minchia, Don è nobiliare, nobiliare. Allora, dove andiamo, ragazzi? Andiamo a Savona da Luca, vai Luca. Buonasera, buonasera a tutti. Dimmi. Volevo ricollegarmi un attimo per quanto riguarda Corona, che a parer mio è un bandito, però quello che se riempie le discoteche, se nei salotti televisivi viene chiamato, vuol dire che ci interessa, siamo noi che lo vogliamo, altrimenti sì, non. Ma i banditi, i banditi dal punto di vista televisivo sicuramente interessano, che la gente riempie le discoteche per Corona, oggi ho i miei dubbi, una volta era così, cioè alle presentazioni. Corona è uno che gira anche in provincia per aprire per la inaugurazione dei negozi. Cioè, vai in giro a raccattare Appunto, per carità, vai in giro a denunciare il fisco. Come personaggio sicuramente si sa vendere, avrà dei non ormai valori, ormai sempre meno, ma come è normale che sia, tutti quanti attraversano una fase di ascesa e una di discesa. Ovviamente. Ma non è questo il punto a livello di popolarità. Il punto fondamentale è che uno i soldi se li guadagna poi li deve dichiarare al fisco, perché altrimenti per quanto infatti è un bandito, però ammesso noi, e non concesso, ammesso e non concesso che quei soldi vengano dalle, come ha detto lui, dai guadagni ovviamente nero degli ultimi anni. Gino da Torino. Gino da Torino, vai. Ciao Crociani. Dimmi Gino, dimmi. Ascolta, io ti devo solo dire una cosa. Io sono sempre su Radio 24, no? Sì, e oggi sentivo che ti hanno chiesto il parere sull'Italia, no? Sull'Italia che vuol dire? Ah, sul calcio. Sulla squadra, sul calcio. Sì, vabbè, sì, chi se ne frega adesso, mica parliamo di calcio. Ascolta, anche ogni tanto. Fammi dire anche la mia, no? Ma che sulla tua su cosa? Su questo, no? Su questo. E tu poi hai detto, io sono andato a vedere la partita lì così in incognito, te lo ricordi, no, questa frase? Ah, sì, ma era una frase detta così, in incognito significa che non sono andato in tribuna stampa, io, non sono andato in tribuna VIP, ma io diciamo, dico, no? senza offesa, perché sei una bravissima persona, ma con una faccia come la tua, con quelle basette da Tartagnà, ma dove cazzo vai in incognito, che tutti ti riconoscono? Sì, ma questo non c'è dubbio, mi riconoscono non per le basette, mi riconoscono perché mi riconoscono, Gino, perché no, ti riconoscono per la faccia che ti ritrovi, è vero? Ma come riconoscono Parenzo, come riconoscono, come riconoscono te? Che sarai... io me lo godo sulla 7, quando non c'è la Gruber, c'è lui, io me lo godo. La Gruber, te lo godi, che fai? Guarda, se lo vive, anzi, se lo vive. Se dice, allora, Gino, non ho capito, perché tu ti sei mai guardato allo specchio, non ho capito. No, ma per carità, ma sei simpaticissimo. No, io sono più brutto di te, per carità. Io sono più brutto di te. Ma più brutto, però, dai, parti, a me, parti da una differenza, io non sono brutto, cioè parti da un dato di fatto. No, i belli sono diversi. Crociani, ma chi se ne frega, no? Adesso di stare a discutere con Gino da Torino se io sono bello o sono brutto, è impazzito questo qua. Vabbè, ciao Stefano, Como, vai Stefano. Dai, torniamo al vecchio Trumpone e alle cagate che dice, che è meglio. Dimmi Stefano. Ascolta, Trump dice le sue cagate, ma contestualizziamo, 2005, 11 anni fa. Allora, mi è venuto da pensare che 11 anni fa lui diceva le sue stronzate, le donne, tocco qui, vanno con i ricchi, eccetera. No, ma Trump è questo. Cioè, Trump non è che adesso è diverso, è uguale. Ma io sono consapevole che è uguale. È un gran figlio di puttana, ma a me piacciono i figli di puttana. Però 11 anni fa certe cose che adesso ci sono, insomma, matrimoni gay piuttosto che cose, non esistevano. Ma non in America esistevano. Anche le stronzate di Trump 11 anni fa forse erano un po' meno stronzate di adesso. Allora, Trump ha detto una frase molto semplice. No, non era candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Sì, primo questo. Allora, Trump ha detto una frase, siccome si sono attaccati a quella frase, ha detto una frase che purtroppo non ha il coraggio di difendere adesso, no? Perché non la può difendere. Non è che può difendere delle porcherie che ha detto. Ma non ha detto nessuna porcheria, ha detto semplicemente. Bisogna dire che sono delle cose schifose di una persona. Non ho capito. Qual è ma usare quelle parole nel commento. Ma usare che cosa? Fai un maiale da spogliatoio, come ha scritto Ferrara. Non c'è niente da fare. Un maiale da spogliatoio. Ma Trump, che lo scopre adesso, Ferrara lo scopre adesso che usava quelle parole lì. Ma tu lo sai quando andava da Stern? Quando andava da Stern che cosa diceva? Certo, tu lo sai che cosa diceva? Sai che cosa diceva? Ha commentato un'orgia in più durante un'orgia. Ha detto qualsiasi cosa. E vabbè, e quindi. Ma non è che si sa adesso, si sapeva. Bene, e uno dice, adesso le hanno tirate fuori, evidentemente, come agli italiani va rispolverata la memoria su alcuni personaggi. Quando ti senti spiattellato, dici, questo qui però potrebbe fare il mio presidente degli Stati Uniti. Forse no, guarda. Lascialo decidere gli americani. Forse no. Mia madre non mi vuole far sentire la zanzara perché dice che dite troppe parolacce. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Mia madre era stitica, ma ora, grazie allo Scotti Potti, caga che è una meraviglia. E questo, grazie a voi, siamo al top. Io vedo molto negativo. Le grandi idee di Dacia Maraini, della scrittrice Dacia Maraini. Sì, l'ho sentita la sugli immigrati. Sì, ottimo, bravissimo. Portare gli immigrati nei paesi abbandonati. Certo, cioè, ma ci non sono è i paesi abbandonati in Italia, abbandonati. Sì, a rischio di essere sbandati. A rischio di che cosa? A rischio di essere chiusi, di non portare avere gli immigrati. Ma che vuol dire, sì, tra l'altro? Per ripopolare questa antichi sarebbe borghi d'Italia, certo. Questa sarebbe, ma non è la sinistra. Questa ma non è la sarebbe sinistra, la sinistra. È una cosa intelligente. Ghettizzare gli immigrati, ghettizzarli, portarli dove non c'è nessuno. Come, ma non dovevano essere mischiati a noi? Ci sono dei borghi totalmente spopolati. Per fare cosa? Per ripopolarli e ricreare anche un tessuto sociale, collettivo, eccetera. È un'idea geniale che viene, peraltro non è l'unica che l'ha fatto. L'hanno fatta anche altri grandi intellettuali come Daveri. Tante persone hanno proposto questa cosa. Portare gli immigrati di portare i migranti in alcuni borghi italiani che sono a rischio estinzione, nel senso che sono via via spopolati. Tu sei completamente fuori di testa, ragazzi. Ma no, ma ragazzi, cioè, siete lì dentro a Milano, siete, o no? Siete veramente qualcosa fuori di testa. Ma siete, cioè, chi? Ma siete fuori di testa. È un'idea straordinaria. Ma è una puttanata, è una puttanata inaudita, una puttanata. E perché sarebbe ma una sciocchezza? Ma che cosa vuol dire? Ma portarli là, a parte che costerebbe molto di più, e chi paga? Ma chi l'ha detto? Chi paga? Chi paga? Chi paga? Ma cosa vuol dire chi magari paga? Magari c'è il rischio crollo di palazzi, cioè ci metti la gente così, una cosa razzista. Peggio di altre cose. Ma come che no? Che sciocchezza, ma quale? Molti di questi borghi sono abbandonati perché la gente non ha lavoro. Allora che se farebbero ne farebbero là. E quindi sono zone molto popolate da anziani. Ora si tratta di ristrutturarli, di rimetterli a posto. Sì. Gli stessi sindaci alle volte dicono creiamo dei progetti attorno a questi borghi. Non è una cosa che tu risolvi in 4 minuti, però dici c'è un progetto. Sì. No, certo. C'è un progetto e poi arriva uno dal Senegal, arriva uno dalla Nigeria e va a ripopolare i borghi abbandonati in Italia. Va lì, ricostruisce con l'aiuto dello Stato e dell'amministrazione un tessuto sociale. Che fa con l'aiuto dello Stato? Ricostruisce. Ma si chiamano politiche sociali, non con l'aiuto dello Stato, che cosa fa in 50? Ma che c'entra? Se le metti nelle città, vabbè. Comunque, no, nelle città no, perché sai, nelle città poi non si può. Questa è un'idea geniale, peraltro non è il modo per risolvere, è una delle possibilità. Comunque, ragazzi, la realtà è un'altra, al di là dei progetti che non si faranno mai, la realtà è un'altra. Che spesso, perché ci viene già documentato, ci sono degli esperimenti, c'è già un comune che lo ha fatto. Benissimo, andate avanti. Ci viene spesso documentato da persone che ci mandano video, mail, eccetera eccetera. Adesso pare che ci sia un caso abbastanza clamoroso, questo a Calalzo di Cadore in provincia di Belluno. Praticamente cosa succede? Che moltissimi immigrati vanno nei treni e non hanno il biglietto, Vabbè, come tanti italiani. Gli italiani vengono multati, è successo ad un'anziana, ripeto, a Calalzo di Cadore, mentre gli altri, siccome non hanno un euro e siccome comunque anche se li multano non pagheranno, dice vabbè voi andate. Gli italiani o comunque l'anziana signora paga la multa. Quello là ormai se ne fottono, manco controllano il biglietto, capito? Una roba incredibile, dai. Incredibile, incredibile. E vogliamo parlare di quell'altra cosa di Napoli? Questa è la cosa più incredibile del mondo. Cioè a Napoli ci sono i lavoratori della Circumvesuviana, sì. Della Circumvesuviana, i quali stavano per fare sciopero, che all'ultimo è stato revocato, lo sai perché? Si erano organizzati uno sciopero perché l'azienda, dopo tantissimi anni di privilegio, eccetera, eccetera, vuole tagliare le tessere gratis per i familiari. A me fanno impazzire queste cose, giusto? Giusto che vogliono tagliare le tessere gratis? O sì, che ci siano le tessere gratis? No, giusto tagliare le tessere gratis per i familiari. Qualsiasi è una vecchia cosa che c'era anche in Ferrovie dello Stato, che i figli e anche addirittura i fratelli avevano la tessera. Sbagliato. Viaggiavano gratis, insomma, le mogli di ferrovieri viaggiavano. Era una forma di welfare, di assistenza, di come dire, di benefit aziendale. Non ho capito se è giusto o sbagliato. Ma in un'Italia in cui le cose andavano bene era anche giusto, probabilmente. È giusto o sbagliato? Era sbagliato. Ho detto le cose, non è giusto o sbagliato, dipende dal momento. Allora, in un'Italia in cui le cose ma andavano male anche per questo, le cose poi sono andate male anche per questo, ma non è detto. Poi sono andate male anche per lo sciallo, anche per lo spreco che venivano riconosciute ai dipendenti. Ma di questo lo sappiamo, Stato, vuoi dire se è giusto o sbagliato? L'ho appena detto. Non l'hai detto. Adesso che non ci sono più soldi è sbagliato, no, e quindi è giusto quello che hanno guarda fatto. Guarda che un motivo per cui una non ci sono più soldi è anche questo. Ma non è detto, uno dei motivi anche perché questo. Rubavano, anche perché la gente Giuseppe ruba. Dalla provincia di Varese. Hanno fatto appalti sbagliati, mica solo per i benefit stupidi. Giuseppe dalla provincia di Varese. Pronto? Dimmi. Pronto, eccomi, ciao. Su. Ciao a tutti, volevo fare un intervento breve, rapido, penso anche adeguato, me lo direte voi, sul sindaco di Messina, non mi ricordo più il nome. Sì, Accogliati, dimmi. Ecco, io dico, le critiche sono esattamente fuori luogo, perché noi perdiamo la memoria storica di quello che succede. Se andiamo a vedere col proibizionismo americano degli anni 20, vabbè, tu sei a favore della legalizzazione della droga e della prostituzione, assolutamente, giusto? Assolutamente sì. Siccome lo siamo anche noi, arrivederci e grazie. Enrico da Napoli. Ciao Enrico. Buonasera. Dimmi. Pensate, vabbè, mio pensiero, vado di fretta come voi. Sentivo tramite appunto la vostra trasmissione il fatto di Fabrizio Corona, poi non ho nemmeno approfondito la notizia, e poi ha parlato prima un siciliano che si sbatteva, si alterava, eccetera eccetera. Dimmi. Ma guarda, io dico una cosa, ma va bene, quello che ha fatto Fabrizio Corona è condannabile e tutto e via dicendo, però ragazzi, io faccio un imprenditore, no? Purtroppo perché oggi è una battaglia. Allora, che cosa fai, evadi le tasse? No, io non evado le tasse, però, anche perché non lo diresti, insomma. Vabbè, infatti. Vabbè, qualche cosa però, in nero lo fai, dai, su. Ma voglio dire, viene un clientuccio piccolo, ti chiede qualcosa, tu, voglio dire, stupidaggini, proprio dettagli, però dico una cosa, no? Vediamo oggi che i politici... Ma lo fai in nero o no? Non ho capito se lo fai. No, non lo faccio, ragazzi, perché ho paura della mia ombra, però se potessi... Lo faresti. Me lo dico con tutto il cuore, lo farei. Ma questo che cosa c'entra, scusami, Enrico? Cioè, stiamo parlando di un'altra roba qua. No, vabbè, ho capito, però cioè, mi non è che stiamo parlando non del fatto del generale, non di un discorso generale se è giusto o no che uno faccia un po' di nero perché c'è il fisco che è oppressivo in Italia. Stiamo parlando di un'altra cosa, di un signore che ha i servizi sociali e dunque dovrebbe in qualche modo rigare dritto, e invece sembra che nasconda pacchetti di soldi nel controsoffitto della sua segretaria, della sua amica, del suo braccio destro, eccetera eccetera. Questo è il punto. Il solo fatto che siano stati ritrovati quei soldi è evidente che te torni in galera, come è successo. Cioè, non mi pare che sia una cosa così, cioè, così strana. Cioè, ti trovano i soldi lì, stai ai servizi sociali, dovresti rigare dritto, dici che questi soldi sono frutto del nero. Se sei ai servizi sociali e devi rigare dritto, e già non rigava dritto ed è stato salvato altre mille volte, ti becchi la galera di nuovo. Beh, ma sì. Mi sembra una cosa, vabbè, talmente... a lui gli sta bene. Va bene Enrico, comunque. ciao. Donato, ecco Donato da Varese, che c'è Donato? Sono due argomenti che io vorrei parlare. Prima volevo parlare, come si chiama, dimmi. Sai, con educazione, un po' di Nicolina Vendola. Nicola Vendola. No, ma non sia offensivo. Dimmi. Nicolina, scusa un po', se uno lo prende dietro la Nicolina, io conosco. Non sia offensivo. Ogni tanto dice Donato me lo dai, io gli dico no, io sono un uomo, però lui dice chiamami Francesca, è un uomo, Nicolina Vendo, Nicolina Vendo con suo marito, no? Questi due ladri di bambini, sai che abbiamo saputo? Questi due, scusa, questi due? Ladri di bambini. Ladri di bambini, sì. Io spero che qualcuno hanno battezzato il povero bambino, il povero Tobia, sai, comperato con frutto dei soldi pubblici. Praticamente un'anima, praticamente si potrebbe dire che sia un'anima, diciamo, che ha assemblato con quattro soggetti, lo sappiamo, l'ha affittato con indonesiani. Anima assemblata con un uovo, l'ha affittata una Nicoli californiana e un liquido seminale di suo marito. Sì, allora? Quindi è una cosa ibrida, orrenda, che i nostri padri davanti a queste cose avrebbero detto. Lei qua, è orrendo, è per ibrido, me è orrendo. Lei è orrendo, dice delle volgarità inaudite. Offende, io spero veramente. Ha detto, secondo lui, che è sbagliata la pratica. Io spero veramente che la pratica di Vendola. Scusami, non è che ha detto delle cose strane. Così. Ha detto delle cose molto e poi, offensive. Peraltro, qualcuno si domanderà pure il motivo perché questi due stronzi hanno adoperata la figa, come si chiama, l'utero di un'indonesiana. Perché era secondo voi, perché hanno fatto questo? Questi due disonesti? Perché il bambino, una volta cresciuto, al quale poi la verità, sai che c'è sempre mille gambe, io domando, papà, chi è che mi ha messo al mondo? Non potevano dire una donna che si chiama Francesca, che ha 60 anni, che abita a San Francisco, no, una picchiacca che sta in Indonesia, e il bambino, ma dove sono? Non ci sono più, devi amare noi. Quindi pensa un po' che scaltrezza questi due ladri. Se tu dici l'hanno fatta apposta. Certo, apposta, prendi una donna e dice, mi dai un bambino, no, hanno adoperato l'utero di una donna. Non è vero, ma è quello in una clinica, hanno scelto in Canada, eccetera. No, non è vero, assolutamente come, vero. Non è vero, sì, è così, una clinica in Canada con i donatori, eccetera. Comunque, vabbè, al di là di questo, qual è il punto? Il battesimo, no? Il battesimo, esattamente, il prete dovrebbe vergognarsi perché dovrebbe sapere che da 4.000 anni in chiesa. Ma io sono... Allora, io non sono uno che i valori che a me hanno insegnato quando ero bambino, io non li posso demolire perché hai quell'esercito di casa a fianco a te. Io ma non posso demolire lei, ma valori. Sai che proprio, lei è stupido, si sa, ma è anche ignorante, c'è cioè un ignorante stupido. Anni cioè, chieda a qualunque prete. Prete battezza se... una donna e un uomo che gli porta un bambino, ma non questi interi. Allora, ma a me non mi interessa, questi qua possono fare i cazzi, ma purtroppo io sono molto combattuto da quello che sta accadendo. No, ma lei è molto malato alla testa. Quello che sta accadendo in Italia, ve lo che dico. È successo? Quello... Che è successo? È normale che voi dite non mi interessa. Allora, qua bisogna. Io chiedo a te, Giuseppe, una grande cortesia. Dimmi, che è successo? Dammi, perché sei preoccupato? Dammi più tempo. Io che voglio fermare quella sporcizia che sta accadendo nel canale di Sicilia. Quella lì è inutile che dopo le sporche sinistre dicono e noi non avevamo alcuna alternativa per fermare quella cosa. Purtroppo no, le soluzioni ci sono e le dico di prendere responsabilità. Dimmi. Andare lì con le navi militari, mandare prima tutti i volantini in tutti i dittatori, o fate su Italia quelli che stanno in Africa, mandare questi volantini. Poi? Dire entro il tale giorno chi si permette di entrare sul canale di Cirente cercando di andare a Lampedusa verrà bombardato o quantomeno fermato. Ma non ho capito, quale sarebbe la tua cosa? Marina militare, dunque? Marina militare è fermarli, prenderli, punirli e buttarli ancora su. Allora, cioè sparare. Allora, ricordati che non esiste uno spazio televisivo su quel mi segui? Sì. Non esiste uno spazio televisivo di persone che possono dire liberamente queste cose. Io vedo su Rai 5 ma è pieno di quella gente... Rai 3 che dovrebbe essere demolita, la Rai 3. Demolita. Dovrebbe essere demolita. La Rai 1, Rai 1 è la fabbrica della menzogna. Della menzogna. Rai, l'avete mai visto quel frittella? Quel frittella di merda. Ma io spero che c'è una querela incredibile. Che c'è la frittella? Credetemi, Rai 1 è da ma non si può quella non è una televisione. Quella è una televisione. Beh, se fosse frittella la manderei fuori, lo denuncerei. E la 7? Militarizzata. La 7? Spero che qualcuno lo denunci, però. La 7? Ma che cazzo me ne frega a me gli denunci? Sì, quella è una televisione militarizzata. Ma la 7? Che la 7? L'assassino Renzi, ha voluto che fosse sottomessa a suo volere. Ma la 7? Che purtroppo anch'io pago il canone. Ma come cazzo è possibile? Ma la 7 invece? Che l'ho subito superato, perché lo sai. È un piccolo porcino di sinistra. Che c'è qualche... La 7 è un piccolo porcino. Qual'altro arrivato tuo amico, come cazzo si chiama, quello che fa la mattina quel programma lì, una volta disse... Ma perché deve parlare male di queste robe? Come cioè, qual è la roba divertente di farlo delirare su queste robe? Disse. Qual è? Ascolta me che cazzo disse. Io non avrei potuto lavorare se non avessi avuto una bandante sudamericana a casa che mi guardasse i bambini. Quella lì! Ma sai quanti italiani che sarebbero disposti ad andare a cudire i figli di quella Mirtolo? Vabbè, ma ho capito, ma che vuol dire? Lui l'ha scelto la sudamericana perché ha trovato la sudamericana. Non la deve scegliere! Bisogna prendere tutti gli italiani disoccupati che stanno morendo di fame! Fuori tutti da questo paese! Guardi, ho perso la voce parlando con voi. Fuori tutti! Dobbiamo tornare al 1990! Fuori tutti! Altrimenti qua noi moriremo tutti! Ciao. Moriremo in mano a queste sinistre fetenti, a quel porco miserabile! Ah, scusa, Parenzo, non reagisci di fronte a queste cose? No, mi interessa, mi sono no. Accanto, no, perché ci delle cazzate. Ciao, Donato, ciao, ciao. Basta. Bisogna fare dei rituali per far sì che non ti cacciano, bisogna fare dei lavori particolari. Allora ragazzi, abbiamo con noi, caro Parenzo, Lele Mora. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Molto bene, grazie. Molto bene, sospetto, sospetta no, questa cosa. No, molto bene, quando uno sta bene, io sto sereno, che è la cosa migliore. Mai ecco, esultare però... delle disgrazie altrui, ecco, caro sei Mora. Contento no, che... No, questo mai, lo sai come sono fatto io. Io non godo mai delle disgrazie, anzi, sono molto dispiaciuto. Beh, per non cosa. Questo non ci credo, questo non ci credo, che sei dispiaciuto che è in galera, non ci credo. No, sono dispiaciuto ed è veramente, perché... La galera non si augura a nessuno, uno che l'ha provata, come sono stato io che l'ho provata, la galera non si augura a nessuno. Per cui... Io tempo fa avevo detto, questo uomo è malato, è malato, lui è malato veramente. Ma di che cosa? È malato di soldi, hai capito? Ha questa malattia dei soldi, che se lui non guadagna soldi, non prende soldi, non approfitta dei soldi con la gente, sta male. Per cui io non ho capito, questo è interessante. Cioè, secondo te, per esempio, il fatto che dicono che sia cocainomane non è vero? Tu l'hai sempre detto. Io ho sempre detto che non è cocainomane, non lo è. Non è mai stato? Non lo è mai stato cocainomane. Cioè ha toccato pochissima cocaina, addirittura forse mai l'ha toccato cocaina. Ma secondo me mai, lui non ha mai pippato. Te lo dico io, lui prende tutte quelle pastiglie, prende Viagra, prende questo muscoli, prendere per altre cose, ma... Ma cocaina mai? Mai, no, non è un uomo da per cocaina. Cui questa cosa qui è stata un po' inventata per uscire dalla galera, questa cosa della cocaina. Questo sai, non lo so, non so neanche la motivazione, se devo dirti, perché è uscito dalla galera. Io non mi sono proprio informato di queste cose perché non mi interessava vederlo, non mi interessava incontrarlo, non mi interessava niente di quello che faceva lui dopo le storie di Valletto. Però era inevitabile secondo te, perché siccome è malato di soldi, cioè inevitabile che tornasse in galera. Io ho sempre augurato che non ci torni. E vabbè, d'accordo, questo l'abbiamo detto, però era inevitabile. A volte certe cose, sai, io anche quando mi è dispiaciuto quando sentivo tempo fa, non molto tempo fa, che era ancora lì per questa cosa che il tribunale doveva dargli, se dargli, non dargli, continuare la e lui è un provocatore, lo sai meglio di me, l'hai conosciuto, però è un pirlone, perché dopo che hai una situazione così che ti hanno dato, che non danno a tutti. Sì, è stato un privilegiato. È stato un privilegiato. Ha sbagliato, certo. Ha sbagliato e non si fanno. Senti, ma secondo te questi soldi qua sono soldi che delle serate in nero, cosa che mi sembra difficile, diciamo la verità. Cioè 1,7 milioni ormai non li guadagna più, 1,7 milioni in nero Corona, no? Ma secondo me ne guadagna anche di più Corona. Addirittura. Corona faceva anche 4-5 serate in ogni sera, stava dappertutto. Ma parli di adesso, parli di adesso pubblici. D'accordo, ma parli di adesso oppure parli di qualche anno fa? No, anche adesso. Io lo so per certo perché tante persone chiamavano, mi dicevano digli qualcosa tu. Io non ho niente a che fare con quest'uomo, non posso dire niente. Non ho niente, non voglio niente averci a che fare, non mi interessa. No, ma questo d'accordo, però ti pare normale? Cioè lui negli ultimi anni ha fatto delle dichiarazioni di redditi ridicole, no? In parte perché era in galera, in parte perché dopo evidentemente dichiarava poco. Cioè era uno abituato a fare il nero? Ma, come tutti, sai, dici? come tutti fanno. Anche, anche tu avrei fatto il nero nella vita. Beh, io ho fatto il nero e ho anche pagato, ragazzi. Nerissimo hai fatto, sì. Nerissimo. Sappiate di regolare che io ho fatto un po' di galera. Lo sappiamo. Ma dove avevi i soldi nascosti? Nel letto, no? Non ho neanche le mutande, per dire, capito? Perché mi hanno sequestrato tutto, ma è giusto così. Ho sbagliato e ho ammesso le mie colpe. Ho patteggiato il mio fallimento. Chissà di quanto era il mio fallimento? Di quanto? Ho patteggiato il mio fallimento effettivo, dopo erano dati tutti sugli interessi, erano di 5 milioni e 9. Mamma mia, insomma. Ho dato su tanto per varie cose. Senti, ma oggi sul conto quanto hai tu? Oggi la cosa effettiva è che io sono senza neanche la casa, senza niente, capito? Non è che... Vabbè, ma un po' c'è la tuo figlio le cose. Ma oggi quanto hai sul conto? No. Oggi sul conto tu quanto hai? Io non ce l'ho il conto, figurati. Non ce l'hai? No. E dei soldi, chi te li dà? Tuo figlio i soldi? Mi dà lo stipendio, io prendo lo stipendio da mio figlio. Ma tu il conto tuo ce l'hai con un banco, ma con scritto Lele Mora sul conto? No, ce l'hai o no? C'ho un postpay. E quanto c'hai dentro? Glielo ricaricano tutte le volte. Me lo caricano quando ho bisogno di qualcosa, qualche amico mi dà qualche 100 euro, qualche 1000 euro, le chiedo, hai capito? Se ho bisogno da... Ma come vivi? Come un barbone vivi? No, vivo benissimo, perché mio figlio mi ha... Ma ha fatto no, d'accordo, ma vivi così, ogni tanto chiedi dei soldi a qualcuno, oltre a quello che ti dà tuo figlio. Allora? E cosa fai? Aspetta un attimo con la pubblicità che torno. La vostra trasmissione ha fuorviato completamente mio figlio, non lo riconosco più. La Zanzara. Tribunale di Padova, come controparte ho l'avvocato Parenzo, papà di David. Siamo al top. Allora, abbiamo con noi nel giorno dell'arresto di Fabrizio Corona, che torna in carcere. Per chi è interessato a questo argomento, naturalmente. Tutta Italia ne parla, effettivamente. Sì, assolutamente. Torna in carcere Corona, come io avevo largamente previsto. Non è che mi augurassi questo, però ho sempre detto, ero contro questa campagna che c'è stata di VIP o presunti tali per far uscire Corona dal carcere. Lo trovavo un'assurdità rispetto a tante persone che sono in carcere, che restano in carcere avendo lo stesso cumulo di pena e le stesse condanne di Corona. L'ho trovato un privilegio che gli è stato concesso e che lui evidentemente ha sprecato, utilizzato male. Abbiamo con noi Lele Mora, che come sapete a lungo è stato amico, innamoratissimo anche di Corona. Senti Lele, ma voglio capire come va a finire in carcere adesso, c'è pericolo che non resista? Ma sai, lui so che il carcere l'ha sofferto molto la volta scorsa, da quello che mi aveva detto sua mamma, le persone, Francesca che gli era vicino. Ma questa qua era veramente la sua cassaforte, come dicono? Questa Francesca? Allora Francesca ha mollato famiglia, si è portato via i figli, è stata vicino a lui, gli ha curato tutto, ha dato la sua vita per stargli vicino. Poverina, adesso te guarda, rifaceva da in galera pure lei. Da amministratore in galera pure lei. Questo mi dispiace perché l'ho vista pochi giorni fa. Sì. Ma veramente lei era, diciamo, come dire, il braccio destro che sapeva tutto, la donna ombra, cioè. Soldi, e com'è tutto, che i soldi là, secondo te l'ha messi lei i soldi là dentro o no? Bah, questo non lo so, sai. Comunque lei sapeva dove erano i soldi, perché lei era l'unica di cui lui si fidava ciecamente. Ma lui ha ancora soldi, ha ancora soldi da altre parti, secondo te, ancora più soldi? Secondo me ne ha molti di più di quelli che gli hanno preso. Sì. Ma li ha portati fuori in Austria, Svizzera? Non lo so quello, sai, non lo frequento più, ormai sono esattamente 6 anni che non lo frequento, però so che i soldi li aveva, hai capito? Poi ha guadagnato molti, molti soldi. Certo, che quanto ha guadagnato secondo te? Altri, quanti ne ha fuori? Guarda, secondo me lui è uno che ha messo via una decina di euro. Una decina. Tu per esempio hai recentemente, lo sai che ha detto Mora, che a bei tempi guadagnava dai 10 ai 100 milioni l'anno? Quello è vero, è vero. Cioè, sei riuscito a guadagnare 100 milioni l'anno tu? Ma li ho buttati via, sono stato uno stupido. Adesso ma dove li hai buttati, scusa? Amaramente, ma varai, stronzate, stupidaggini, case, viaggi, amicizie, regali, chi veniva a bussare ho sempre dato a tutto e di più. Cioè, adesso... qual è la cosa, lo spreco più grande che hai fatto con i soldi? Cioè, proprio la cosa di cui, cioè, di cui ti penti, proprio una di quelle stupidaggini? No, no, io no, ti dico la verità, non mi pento di niente. Di quello che ho fatto, l'ho fatto, ero coscientissimo di farlo. Anche je ne regrette rien, je ne regrette rien. No, bella, non bisogna mai pentirsi, piangere sul latte versato. Ho fatto tutto quello che mi piace. Mi è piaciuto, mi piaceva. Ma tu ti sei drogato? La cocaina l'hai usata? Ma sei pazzo? Sì, io sono uno che sono contro la cocaina. Ah, vero droghe. Che tu sei mussoliniano, è vero, sei molto mussoliniano. Bravo. Non fascista, ma mussoliniano. Non fascista, mussoliniano. Mussoliniano. Ancora beh, oggi su tutte le mie parti dove posso mi tengo la statua di Benito. Non è simpatico, Dio. Però comunque. Vabbè, ma che c'entra? Se non è simpatico per te, metti qualcos'altro. Io metto lui. Ah no, per me è assolutamente. Cioè, ancora hai stato di Mussolini a casa? Ma vicino a casa, vicino sul mio comodino c'è una statua di Mussolini e una statua della Madonna di Medjugorje. Non so quanto siano compatibili, diciamo, questi tutto, due, però tutto è compatibile. Sì, beh, per carità. Senti Lele, ma Don Mazzi certo che ha preso un bel granchio, con questa storia qua di... Ma Don Mazzi non ha sbagliato, Don Mazzi aiuta le persone, Don Mazzi posso dire che è una persona veramente brava. Ho capito, però ha detto che era cambiato, dato... eccetera, dai, l'ha fatto anche lui per esibizionismo questa roba qua, dai. Ma sai, a volte ci si sbaglia nella vita, uno può dimostrare una cosa poi ne fa un'altra. Io vado a fare il mio sociale che devo fare, faccio quello. Senti, che a proposito, fare. Ultimamente è uscito fuori qualcosa sulla sessualità di Corona, ma com'era messo sessualmente Corona? Ma devo dire molto dotato, bene. Dotato o no? Sì. Super. Sì, girava un po' a destra, tirava a destra. Tirava a destra il pisello? Sì. C'aveva il pisello che sì, perché c'è come il tuo, dicono, come il tuo. No, il mio no, il mio non tira a destra. Pensa che allora conversazione. Si sbagliano con l'altro, si chiama il tuo collega che Parenzo, no, non credo. Sì. Il pisello di Parenzo non lo conosco in giro. Un giorno vengo io in radio a leggere il pisello di Parenzo. Ma anche no, ma non è una cosa che aspetto. Però scusami, diciamo. Perché, nel senso che era dotato o no? Cioè, a centimetri come stava Corona? Ma tu che l'hai conosciuto da vicino, insomma, l'hai toccato con mano. Sì, l'ho visto. L'hai visto? Quant'era? Normale o no? Sopra i 15 o sotto i 15? Sopra i 20. Sopra i 20? Sì. Sopra i 20, tendente a destra. Girando a destra, mamma mia, ragazzi. Senti, ma allora è vero che era super dotato un po', cioè super sì, dotato, vero, era ben messo, ben è messo. Vero, ben è vero, messo. È vero. Vabbè, senti, ma tu che cosa voterai al referendum? Questo è interessante, Parenzo. Cioè, al referendum cosa voterai tu? Non vota, secondo me. Sì. Non voto, prima di tutto non posso votare. Ah, non può votare, vabbè, non può votare, è vero. Non posso votare, ma voteresti io, sì, voteresti io, sì. Sono per un'idea, io sto facendo una cosa molto bella. Ma sei renziano o no? Sei renziano o no? No, basta, mi ha stancato. T'ha stancato Renzi, t'ha stancato mi Renzi. Mi piace più... Chi ti piace adesso? Quello della 5 Stelle lì, Di Maio. Ah, Di Maio, ti sei innamorato di Maio adesso? No, io non mi innamoro più, oramai sono ormai vecchio. Ormai, tanto sono scanti anche i 5 Stelle. Non scopi più. No, da 5 anni non scopo più. No, niente, nessuna attrazione sessuale, cioè non ti tira più da 5 anni. Zero, mi funziona, mi serve solo per fare la pipì. Solo per fare la pipì, è la verità. No, per carità, ma quanti anni? Cioè, quanti anni hai adesso, Lele? Scusami. Io sto prendendo delle pillole che ti rendono lo so. In piedi di lavorare, e purtroppo ti inibiscono da tutto quello che è la libidine. Capito? Sì, ma senti, ma quanti anni hai? Scusami. Io ne ho 62. Ma è possibile che a 62 uno ha finito di fare sesso, ha finito di scopare tutto? Allora, quando uno non sta bene finisce di... Sì, quello è vero, per carità. Nessuno dice niente. Preferisco curarmi che trombare, anche perché non ho soldi, sai. Allora, una volta magari mettevo qualche foglio da 500 attorno alla minchia, allora tutti finivano. Adesso... Questo è bello, una volta è stupendo. No, in questo sei stato sincero. Una volta, quando uno ha i soldi, mettevi 500 euro intorno alla minchia e tutti quanti arrivavano a frotte. Adesso invece che non ci sono più i soldi, pazienza. Ci sono solo le monetine, e siccome il mio culo non è un jukebox, non l'ho mai fatto. Eccola. In certo sistema le monetine non si possono usare. Ciao, eccola. Presto, ciao. Saluti, ciao, professore. Lele. Ciao, professore. Saluti. Ciao ragazzi, ciao. Ragazzi, tanto per citare l'altro scandalo a Corinti, il sindaco di Messina della settimana scorsa qui alla Zanzara, è stato quello che ha detto che i Rom sono meglio dei siciliani mafiosi. Sì, vabbè, ora si può dire tutto. Io sapete come la penso sui rom, no? Cioè, secondo me non esistono i campi rom. Uno dovrebbe, sono, se sono italiani, devono comportarsi come cittadini italiani. Nessun aiuto, andassero a cercare casa da soli. Ma è una banalità quasi. No, cioè, ma infatti, su questa cosa qua, adesso, povera Corinto, non è che ha detto una cosa strana. Oggettivamente, rispetto ai siciliani mafiosi, ha detto, non ai siciliani mafiosi. So meglio i rom, se proprio uno deve fare una scala, no? Di pericolosità, certo, ecco, di pericolosità sociale, per esempio. È chiaro che sono molto più pericolosi i siciliani mafiosi, conniventi oppure mafiosi, piuttosto dei rom. Mi pare evidente, ragazzi. A me non stanno simpatici i signori rom. Non sono ipocrita, mi danno fastidio anche. Cioè, che devo fare? È così, cioè, sono sincero in questa roba qua. Sono respingenti, beh, spesso fastidio, non lavorano. Mi danno fastidio, che trovo? Quando viene un rom vicino mi dà fastidio. È una cosa razzista? No, mi danno fastidio. Poi non è che li voglio bruciare, per carità, non voglio bruciarli. Assolutamente, non toccherei mai nessuno. Ma sai quante robe anche a me danno fastidio, eppure. Vabbè. Vabbè, ho capito, ma non lo vuoi. Perché non dire una cosa sincera? È questo. A me, se viene qualcuno vicino che assomiglia a un rom, che mi chiede i soldi, mi dà fastidio. Che ti devo dire? Vabbè, uno che ti chiede i soldi. No, ti vende, mi dà fastidio fiori, vederli. Vedere i bambini sfruttati, mi danno fastidio queste, vabbè, situazioni, non i rom in quanto tali. Fabio da Roma, vai Fabio. Buonasera a tutti. Dimmi. Una volevo dire in merito a quel discorso dei biglietti Ferrovie dello Stato, chi per loro, no? Sì. Io sono figlio di un ex ferroviere, cioè mi sembra una cosa sbagliata togliere dei biglietti che poi alla fine erano stati menzionati nel momento in cui ad esempio papà o qualunque altra persona lavorava e lavora con le ferrovie o qualsiasi altra amministrazione ente. Perché di fatto quando, esempio, io e te Cruciani stringiamo un rapporto, io te prendo a lavorare per conto mio e ti dico che ti darò anche delle cose tipo biglietti gratis, tu magari sei invogliato da quello, fa parte del contratto che io e te stringiamo, no? Sì, amico mio, il punto fondamentale è questo, finché paga Pantalone... No, non è un discorso di finché Pantalone. Finché paga Pantalone, finché c'è qualcuno che paga, cioè lo Stato, a me non va bene. Se poi un'azienda vuole dare gratis a tutti i familiari fino al quinto grado i biglietti, ecco, del treno o, certo, o i biglietti dell'aereo, possono farlo, chi se ne frega, poi ne risponderà ai suoi azionisti, ne risponderà nelle sedi opportune. A me, se un'azienda pubblica o un'azienda locale che comunque paghiamo noi dà i biglietti gratis ai familiari, per me è una follia che va tolta. Poteva andare bene negli anni 80, ma non perché le cose andavano per il verso giusto, come dice Parenzo, semplicemente perché si usava così all'epoca. Poi le cose sono cambiate, si è capito che questa roba qua è una spesa inutile che fa andare, contribuisce. Ma erano dei benefit aziendali, come ma c'erano che vuol in tutte dire? Le aziende ma private lo, e pubbliche. Ma scusa, ma perché io devo pagare? Perché devo pagare io con le mie tasche, no, scusami, i biglietti che utilizza Fabio da Roma? Tutte le aziende, perché? Tutte le aziende danno dei, ma quelle sono pubbliche, ai dipendenti, ma non c'entra Fabio, però. Fabio, scusa. Tu hai il cellulare gratis che ti dà la radio, giustamente, che ti rimborsa. Ma cosa e quelli già hanno, vabbè, hai il cellulare gratis. Ma mica lo paga lo Stato quello, mica lo paga Fabio per me. Sto dicendo, mica lo paga Fabio per me. Pubbliche e aziende private hanno dei piccoli, ma sono diverse le cose, benefit, ma le cose sono diverse, i loro dipendenti. Ma ragazzi, poi ma questi alcuni qua sono assurdi, altri sono anche giusti. Vabbè, cioè se fino per al quinto te è giusto, grado è pazzesco. Io non ho detto fino al quinto grado, ma anche però che la moglie di un ferroviere possa viaggiare gratis, beh, ma perché? Questo ma mi perché pare deve viaggiare gratis? Perché non deve pagare piccolo, il biglietto? Un piccolo riconoscimento, un piccolo benefit, Fabio, che si può dare. Niente, dicevo che poi alla fine tu te la prendi magari con i lavoratori perché sembra che sono loro i colpevoli di ciò. Appunto, ma loro esatto, hanno in qualche modo stretto, no, io parlavo, il rapporto di lavoro, fra cui era previsto lo Fabio, stipendio e biglietto Fabio, a gratis. Fabio, io non me la sto prendendo, esatto, con i lavoratori. Esatto. Ho capito, piccolo benefit, giusto. No, non me la stavo prendendo con i lavoratori. Stavano per fare uno sciopero a Napoli. Mm-hmm. Uno sciopero? Sì. Uno sciopero? Per questa roba qui, per un problema sindacale, di contrasto sindacale, perché l'azienda vuole togliere i biglietti, poi beh, visto lo strascio della situazione a Napoli, mi pare doveroso questo. Ma non può toglierli, perdonami. Ma non lo so, adesso lasciamo perdere il merito del contrasto. No, non mi interessa. Scusami, Lucia, potrei, guarda, per assurdo. Ma non stiamo parlando di contratti qui, me ne sbatto i coglioni dei contratti. Ma tu te ne sbatti i coglioni, ma chi poi alla fine è stato assunto? Magari non si è fatto assumere per lo stipendio, ma perché c'aveva i biglietti a gratis? No, ma figuriamoci, ragazzi, se vi sta bene così, se vi sta bene così, che avete i biglietti gratis fino alla quinta generazione. A me non sta più bene perché ormai ho 54 anni, quindi non parliamo di cose che furono. Ciao. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. La zanzara. Oh, Crux, eravamo a pranzo, mica 6 ore, in un agriturismo, sardo, per coglioni, merda. Sardo, bello, mangiare, eh? E a un certo punto abbiamo, io sono andato pisciato nel lavandino, ho pisciato. Pure io. Sono pisciato tutto. E poi abbiamo scoperto che le ragazze in doccia vanno in due o tre e si insaponano, mentre una si insapona, l'altra piscia. Cioè, questo l'abbiamo scoperto oggi. Cruciani, altro che squatti potti, io vado a cagare con i tacchi da 15 centimetri, la zanzara. Non capisco tutte ste menate, i gradi per andare a cagare in modo migliore, eccetera, eccetera. Quanto alla fine basta una foto di Parenzo. Non scordatevi il numero del cuore, 393 71 71 701. Amici della zanzara, lasciate perdere, io la zanzara non la voglio sentire perché mi interessa il traffico. Voglio sentire il traffico, capita? La zanzara. Bisogna fare dei rituali per far sì che non ti cacciano, bisogna fare dei lavori particolari. Ah, questi erano i rituali per non essere cacciato, sì, no? Per non essere lavoro, cacciato sì. Dal lavoro, sì. Il mago Ruggero, numero uno assoluto. Mi deve pagare. Ho capito, devo pagare, dico io, però la cosa incredibile è che questi maghi vogliono essere pagati anche a prescindere dal risultato, cioè fanno il rituale. Certo. E no, certo, un cazzo, scusa, se uno torna, se tu fai un rituale, no? Con manco questi maghi. L'idraulico si comporta così. Esatto, cioè l'idraulico ti aggiusta una roba. Se arriva, gli dici, guardi, la pago dopo che ha aggiustato l'impianto, esatto, l'altro giorno mi si è rotta la cosa, sì, certo, si figuri. Se poi non l'ha aggiustato, dice, guardi dottore, scusi, ritorno domani perché non a ci gratis, sono riuscito. A gratis torna. No, lo paghi domani quando l'ho aggiustato. Sì, però appunto, cioè, solamente se ottiene il risultato uno paga, come in tutte le cose, no? Uno fa un allegamento d'amore, così si chiamano, uno fa un rituale. Ma il mago, beh, amico mio, se uno torna poi, se il mio fidanzato, ex fidanzato, colui che mi ha lasciato, che io ho lasciato, se torna da me, allora va bene. Se non torna, i soldi non te li do. Mi pare, no? Sì, io vedo molto negativo. Vabbè, ho capito, vedi negativo, cioè, sì, certo. Quello dopo 2 minuti hai detto perché non hai fatto, non hai sfangato la giornata ieri. Comunque l'Italia è un paese incredibile. Non si sa ancora quanti soldi deve Maradona al fisco italiano. Se 30 milioni, 10, 2, 1, nessuno. Cioè c'è comunque un contenzioso tra Equitalia e Maradona. E Maradona si presenta tranquillamente per la partita della pace. Per la partita della pace col Papa, in programma mercoledì allo Stadio Olimpico, si presenta nel nostro paese, va bene, per carità, non lo vogliamo in galera certamente. Tra l'altro, prendendo per il culo la finanza, cioè sai cosa ha detto nella conferenza stampa? Cioè, no, ma è una roba incredibile. Praticamente sulla Guardia di Finanza ha detto, beh, insomma, io sono contento che non ci sia Equitalia, eccetera, però se vogliono venire ci sono dei biglietti. Cioè così, che bello essere qui e non essere perseguitato da Equitalia. Anzi, invito la gente di Equitalia a pagare il biglietto e venire allo stadio. Che paese meraviglioso, che paese meraviglioso. Ma adesso, Parenzo, c'è il peggio di Radio Padania. Aiuto. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti. Morelli, new entry? No, Morelli direttore, è il direttore, direttore. Sì, è il direttore. Senza dubbi né ripensamenti. E noi ci scandalizziamo delle frasi forse sì, accese, bizzarre, forti da parte di un altro tizio che manco ci non c'entra nulla con noi negli Stati Uniti. E invece qua nessuno si scandalizza, anzi, no, noi siamo profondamente scandalizzati, lo diciamo, lo affermiamo, il fatto che nessuno fa notare o fa rinotare il fatto che da dove sia arrivato questo bimbo e quali siano le responsabilità di questi strani genitori, Vendola per primo, tra i due. Cioè tutti si scandalizzano per Trump, nessuno per il bimbo di Vendola. Ma questo era solamente l'entrée, l'aperitivo. Ascoltatore, i virus e i migranti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Tutti quei virus che ci sono, che stanno uscendo adesso, sono tutti quella gente lì non vaccinata, poi prendono delle scuse che il virus di qua, il virus di là, invece è tutto per quella gente lì che non è vaccinata. Ho visto delle telefoto dei barconi, dei gommoni con dei bellissimi salvagente messi in fila per due, che sembrava quasi una, sembrava fin bello. Io mi chiedo, ma c'è pure il business dei salvagenti? Perché manco quelli della Costa Crociere hanno quei bellissimi salvagenti. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme, sfonda il muro di onnipotenza. Lo sa che qui a Merate hanno chiuso la sala di animazione per il virus che portano su tutti quella gentaglia lì? Gli extracomunitari lì, tutti con la scaglia, hanno chiuso la sala di rianimazione. Grazie. Se lei va, se lei va ai pronti soccorsi, sono tutti con la gente lì. Grazie. Porta su tutte le malattie. Servi di Roma. Hai capito? Le malattie, le ma malattie. Grazie cosa, grazie. Senti, senti questa cosa qua, il prossimo lavoro di Vendola. Il prossimo lavoro di Vendola sarà l'immobiliare di uteri in affitto. Gli italiani non stuprano le vecchie. No, io ho 50 anni, io non ho mai sentito un delinquente italiano che abbia violentato un'anziana di 87 anni. Questi sono animali, sono bestie, arrivano e ci invadono. Questo perché c'è una notizia di un romeno che ha violentato una ottantenne, una ultra ottantenne a Brescia. Non permettere al tiranno di accecarti. E poi naturalmente Barin. A chi ti vuol fermare? Peschiera, l'ex caserma aeronautica è inadatta, dice Decorato di Fratelli d'Italia. Ma che cacchio ce ne frega, il prefetto li manda lo stesso. Ma tanto, scusami, l'abbiamo respirato per tanti anni noi l'amianto, e facciamoglielo respirare un po' anche a questi africani, un po' di aria pura. Servi di Roma fuori. Ma che ce frega, respirino un po' di amianto, respirino un po' di amianto. Ma è incredibile come in quel posto ci sia una concentrazione di idioti. Cioè, metti, ci sono, non lo so quante, 20 persone che lavorano. Di queste 20 ce ne sarà una, ma non dico intelligente, ma con un minimo di umanità, di razionalità, mai sentita. È una concentrazione, gli studiosi dovranno prima o poi scoprire e dirci qual è il segreto, l'arcano di quella radio lì, in cui proprio c'è un 100% di idioti. Però, 100%. Però parla di un fatto concreto, questo tizio romeno Prea, quello che ha stuprato l'australiana a Roma, che è romeno, recidivo, come sai. Ne hanno parlato tutti. Lo ne hanno parlato. Liberato, sì, tutti però, i giornali. Però che c'entra, dai, senti, senti, senti. Il signore Edward Oprea, romeno, che ha stuprato l'altro giorno una signorina nei pressi del Colosseo. Tentò già di uccidere, ma era libero, senza dimora. Aveva solo l'obbligo di firma. Voleva fuggire dall'Italia. E intanto che si prepara a fuggire dall'Italia, ma scopiamoci qualche ragazzina. Te che bel! Padania bella e libera. Prima vengono gli africani che ti toccano il culo. A proposito, c'è la notizia di un tizio africano del Ghana che da 3 anni ha dichiarato di essere gay, da 3 anni attende in Italia il permesso di soggiorno. Cioè tu vieni dal Ghana, dici di essere gay perché pare che in Ghana la situazione per i gay non sia tanto tranquilla, cioè non può essere così semplice, no? Basta alzarsi e dire io sono omosessuale. Beh, non è che basta alzarsi. Beh, basta alzarsi, venire qua in Italia, sono omosessuale. E che devi fare? Lo devi seguire, vedere, mettiti una telecamera nel letto. Ma non lo so ragazzi, ma non può essere così semplice. È troppo facile dire io sono gay. Cioè come, non c'è la controprova, no? Non ci può essere. Certo, non lo puoi costringere a fare un pompino a qualcuno, ci mancherebbe altro, non sono io, non sono io a volerlo fare, assolutamente. Però è semplice, no? Cioè, è abbastanza semplice. Magari Trump questo propone. No, non lo so, Trump beh, per adesso ormai, sai, beh, può essere ormai. Ah, dai, smetti. Prima ci sono gli africani, caro Sammy Varin. Gli africani che scappano da guerra, che scappano da troppo caldo, troppo freddo, gli africani che ti toccano il culo perché sono gay e te li devi tenere, caro Sammy Varin, a casa tua. Già, pure gay a casa tua, ma arrivano da guerra. Figlia della libertà. Vabbè ragazzi, qualcuno si è scandalizzato perché il sottoscritto, non è la prima volta che lo fa, sostiene che il femminicidio non esiste. Vi faccio riascoltare la trasmissione TV Talk di sabato su Rai 3. Ho detto una cosa molto semplice, cioè che c'è l'omicidio, non è che ho negato che gli uomini uccidano le donne. Ho detto che voler creare una categoria femminicidio, magari un reato, un aggravante perché un uomo uccide una donna, le aggravanti già ci sono, la ferocia. Beh, è difficile trovare una donna che uccide un uomo, però. No, è pieno. È pieno di donne difficile che uccidono, te ne porto. Ovviamente infatti, ci sono più uomini. Un reato particolare. Non c'è nessun reato, per fortuna non c'è nessun reato che è femminicidio. Un reato non ci dovrebbe cioè essere alcun reato. No, una fattispecie. Ma c'è l'omicidio. Esiste l'omicidio, punto e basta. Beh, quello è, certo. Non mi pare che di fronte al femminicidio come un uomo si possa fermare. Da futili motivi, come esiste l'omicidio? Ma è uguale, ci sono già le aggravanti. E che omicidi? Fai? L'omicidio di donne, di uomini nei confronti fai di donne? Il femminicidio che è un reato, ma dovrebbe essere di Dio, anzi un reato ma specifico. Ma assolutamente e, no. Di cui le donne sono vittime, perché non ma mi va sembra che nelle relazioni amorose ci siano donne che lasciate o che lasciano uccidono gli uomini. A parte che ci sono, ci posso fare a parte che ci sono, ma come non no, una pure l'altro giorno, ma che c'entra? Ci sono molto più sono rari, molto meno, ma certo. Sono esempi proprio, infatti il fatto che sia meno vuol dire che il fenomeno non merita di essere tutelato dal diritto. Senti, no? C'è l'omicidio e basta l'omicidio, non è che se tu metti femminicidio spariscono i femminicidi. Dai, non diciamo cazzate, dai, comunque sentiamo la però frase. Inasprisci la pena e dai nome a un delitto, ma, soprattutto. Sai, dare il nome a un delitto, sai, è fondamentale. Godo. Siamo in un paese in cui una donna viene ammazzata ogni tre giorni, ma quindi ma no, c'entra perché se la cultura che passa è la cultura che non va detto in televisione, anche ma gli chi se ne frega dai. Se par- no. Femminicidio non esiste, dai, non esiste. Il femminicidio ecco, non esiste, molto non bene. Esistono gli omicidi, mi sembra un po' estrema. Esistono gli omicidi come di uomini posizione e di donne, non sì, il femminicidio. Ma sì, esistono ma nel momento in cui una donna viene ammazzata ogni tre giorni in Italia, vabbè, questa media non c'è. Ma non è vero, dai. Scusate, mi date per favore. Allora, da un articolo del Post del 2013, bisognerebbe ricalcolare naturalmente, ma comunque 29 maggio 2013, cioè tre anni fa, viene questa frase: non è la Padania, non è il populista, non è l'organo della Lega Nord, non è eccetera eccetera. Il femminicidio, aspetta un attimo che vado a ripigliare le frasi, molto semplici, molto chiare, l'Italia è uno dei paesi dove vengono uccise meno donne al mondo. Beh, basta, non voglio c'è più sentire parlare di questa cosa, basta. Ma non è che se sono basta, meno basta, sono basta sempre troppe. No, ma non mi ma non c'entra meno, no, cioè sul fatto che nel resto del mondo basta si uccidono più donne, non è un buon motivo per dire che non esiste quella questione. Non esiste il non esiste il femminicidio, basta. È come dire, si ammalano poche persone, quindi non facciamo i vaccini. Ma che vuol dire? È una stupidaggine. Va bene. Tu devi debellare il fenomeno. Sì, col femminicidio. Più una Tania, meno Parenzo. Più una Tania, meno Parenzo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Quando dai della troia a una donna è il massimo del complimento che può avere. Io alla mia donna regolarmente do della troia e lei è felicissima. In ogni donna c'è nascosta una puttana, ma per averla bisogna meritarsela. Allora Parenza, a proposito dei termini da utilizzare con una donna e del sì perché io sostengo che dare della zoccola, della troia, naturalmente in certi contesti, non in maniera, sì, non in maniera dispregiativa, sia assolutamente un complimento, assolutamente un complimento. Qualcuno mi ha mandato questa canzone degli Ska J che si chiama Zoccola, te la ricordi, no? Because Andrea da Napoli, vai, Andrea. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi. Saluto te e soprattutto Parenzo, perché dimmi, dimmi. Gli devo fare i complimenti perché è l'unico che riesce a tenere il livello al di sopra della terza media. Senti, io ti volevo chiedere il perché di questi continui interventi di Donato. O meglio, se tu mi dici oggi lo faccio intervenire così si sfoga e non ammazza qualcuno, io ti faccio i complimenti. Se gli dai parola perché pensi che sia degno di esprimere un pensiero, beh, sei un coglione. Senti, amico mio, qual è la domanda? Non ho capito. Il non ho capito la domanda, non ho capito la questione. Non ti piace Donato. Non ti piace Donato da Varese? Me no, ne farò una ragione. No, non è un pensi non che piacere. Fa schifo, ti fa no, schifo, ti fa orrore. Tu, no, tu incrementi questi personaggi assurdi che poi fanno solo danno. Ma sì, no, certo. Ma che cosa strana che dici? Che cosa nuova che dici? Ma tu sai che ogni trasmissione, non te lo devo spiegare perché mi sono rotto i coglioni di spiegare delle cose ovvie. Mi sono rotto i coglioni di spiegare delle cose ovvie alla tua mente stupida, evidentemente. Alla tua mente impreparata ad affrontare questo circo, impreparata. Impreparata. Ma non è questione di circo, interpreta quella larva. Cioè, invece di digli, guarda che non puoi parlare. Quella larva, ma non ti vergogni? Tu invece che pensi di così originale rispetto a Donato? Non ho capito. Rispetto a Donato, di così originale, cosa pensi? E vabbè, ma secondo te è una larva, d'accordo? È volgare, è una larva volgare. È una larva volgare. Sicuramente, questo non c'è ombra di dubbio sul fatto che non sia un... Va bene, ma non un fine pensatore, ma neanche una persona educata, mica un intellettuale, ma perché qui intervengono persone educate ogni tanto? Intervengono solo persone educate? È un grande maleducato, volgare. Ma è uno che dice le sue cose in un certo modo, sarà anche razzista, non lo so se è razzista, non beh, so cosa, di sì, cosa definire, chi definire razzista. Beh, peggio di lui non so. Ma non ho capito, al di là di Andrea, non capisco, al di là di tutto questo, Andrea, che cazzo vuoi? Volevo innanzitutto dire che cioè, non puoi farlo intervenire, se no avalli le sue stronzate, cioè fallo intervenire e mettilo in ridicolo, non gli dare corda. Tu mi stai dicendo a me come fare intervenire un mio ospite, cioè una persona che interviene ogni tanto alla Zanzara, uno che fa parte di quello che è la, come dire, una specie di falange armata di questa trasmissione. Cioè tu mi stai dicendo come fare intervenire uno di questi personaggi qua, cioè tu pensa quanto sono aperto io, tu pensa quanto sono, cioè ti faccio intervenire per parlare di una cosa di cui non fotte un cazzo a nessuno, perché la gente ascolta o si diverta o è schifata o spegne la radio, questa è la reazione. Non è che uno chiede perché lo fai intervenire? Potresti farlo intervenire in un altro modo. Ma che vuoi? Ma che dici? O lo ascolti? Se ti piace, bene. Se ti fa schifo, altrettanto. Se... No, ti sto dando un input per evolvere un input, il tuo modo di lavorare. Per evolvere. Certo. Tu mi devi dire come evolvere il mio modo di lavorare. Ma certo, posso darti un consiglio? Sì, dammi un consiglio. Se fai intervenire uno che deve offendere, essere razzista, perché non posso intervenire io che cerco di dire una cosa sensata? Sì, ma perché tu pensi di dire cose più sensate degli altri? Dove sta? Sicuramente. Vabbè. Senti, allora mi rivolgo a Parenzo, dico... Rivolgiti a Parenzo, sì. Visto che sei l'unico che sembra avere un minimo di raziocinio. Sì. Non dagli corda, cioè quando Donato dice le sue troiate, ignoralo. Ma non è vero, perché l'ha ignorato ogni tanto faceva il respiro, dai, faceva il respiro. Cioè, Parenzo a modo suo lo affronta, certo non con gli argomenti, magari lo affronta facendo la sua. Ma che argomenti vuoi avere contro quello? Scusami, andrebbe solo arrestato, è un idiota, cioè, arrestato, è anche offensivo. Certo. Arrestato. Ma perché secondo te libertà di espressione vuol dire libertà di offendere tutti? Se qualcuno si sente offeso lo guerelli. Sergio da Pisa, Sergio, dai. Ciao Cruciani. Dimmi. Allora, sono Sergio da Pisa. Sì. Senti, volevo dire una cosa, che tu mi stai molto simpatico, però fino a mezz'ora fa il conduttore che mi piaceva di più era Parenzo, era. Vabbè, pronto? Per carità, nella vita tutto si può. Fino a mezz'ora fa. Nella vita succede qualsiasi cosa. Adesso ti spiego bene. Allora, io sono un tipico radical chic, no? Sono docente universitario. Sì. L'altro ieri ero alla Biennale Musica Contemporanea a Venezia. Il prossimo weekend vado a raccogliere le olive a Capalbio, a casa di una mia amica che è una tenuta di olivi e così via. Faccio le tipiche cose da radical chic. Vabbè, ma raccogliere le olive non mi pare. Radical chic, voterò sì al referendum. E così via. Vabbè, allora... Però devo dire, quando sento delle stronzate che anche vengono dalla mia parte, cioè dalla parte radical chic, so riconoscere che sono delle stronzate. Quella di Dasha Maraini è veramente una stronzata. Potrebbe Parenzo argomentare meglio perché no, ma è una puttanata inaudita. È una puttanata inaudita. È una puttanata lei inaudita, sa che cos'è Riace? cos'è il borgo di Riace? Ma dai, ma allora, che cosa c'entra gli immigrati? Gli immigrati col borgo? Vada a vedere un film addirittura fatto ma da cosa tal Wim Wenders, sì. Oppure se non le interessa Wim Wenders perché è troppo complicato, digiti su Google la parola no, Riace, sono R di Roma, I di Imola, guarda che questo Ancona, fa il professore universitario ti piscia in testa, gli altri, e di Empoli, il borgo di Riace è esattamente sì. Quello che già è accaduto, non quello che sì. Accadrà, sì. Ma è già ma un esperimento capire, riuscito. Cioè, Riace, in borghi, ma, poi guarda, cosa gli fai fare? No, però voglio cosa dire, gli cosa gli fai fare? Ma cosa non gli dovete fare? Dirlo a ma me. Cosa gli fai? Ci sono delle realtà, vi informo che ci sono delle realtà, no, vi informo che non è quello che voglio fare io. Non è quello che voglio fare io. Vi informo che ci sono delle realtà in cui questa cosa che vi sembra folle, dai, che ha detto la ottima Dacia Maraini, ma in realtà già esiste, si chiama Riace. Ma lascia perdere, andate che mai esiste a vedere, cosa verificate esiste, e poi contestate. Una volta che vedete se funziona, se non funziona, se vi sembra assurdo. Portare però gli immigrati, affidare agli immigrati i borghi sto abbandonati. Sto dicendo dai, che può essere una delle soluzioni, accanto a tante altre cose. Una di queste può essere questa. A Riace già lo fanno. Vabbè, fermi tutti. Mi dispiace per voi. Ma mi dicono che Maurizia Paradiso è uscita dall'ospedale, sta in un bar. Dov'è che sta Maurizia? Allora tesoro, sono qui in un bar e son pieno di pelo dalle palle all'usello, te lo dico subito. Ma che vuol dire, scusa, dalle palle all'uccello? Ho detto io sei piena di pelo. È la canzone che presenterò a Sanremo quest'anno. Infatti Pippo Baudo me l'ha provata e dice son pieno di pelo dalle palle all'usello. Ma son Pippo Baudo che c'entra con Sanremo? Non c'entra più niente con cioè, no, l'ho presentata a Sanremo, l'hanno accettata, ah. Perché poi la canzone finisce con son pieno di pelo fino al buco del culo. Siccome noi siamo stupidi, dar via il buco del culo gratis. Ma dove sei? No. Dove sei? No? Sono qui in un bar, guarda. Adesso c'è una signora che sta mangiando gli spaghetti col pomodoro del ma marito. Non eri malata? Sì, ma io sono già uscita, amore. Mi dovevate sparare 40 anni fa, dovevate ammazzarmi quando sono nato a Procio, capito? Ma dunque adesso no. Stai a posto, non ho capito. Sei... Allora sono uscita dall'ospedale, le tradizioni del fegato ci sono sempre. Aspettiamo di morire cagando in testa l'umanità. Bene, allora chiedi, fai un sondaggio lì per noi sul referendum in anteprima. Allora, per la zanzara, il referendum in Italia c'è da votare sì o no? Lei che cosa vota, signora? No. Perché no. Vota no? Per tutto. Ecco, sentiamo questo. No, non mangi gli spaghetti, butti giù gli spaghetti. Non faccia come cosa che si faccia beccare con le mani nella marmellata. Votiamo sì o no? Lei in collegamento con Cruciani, glielo passo. Può anche mandarlo a fanculo. Prego. Pronto? Sui, scusi, buonasera, lei che cosa vota, sì o no al referendum? No, ci hanno preso troppo per il culo, basta, bisogna cambiare. Ma che ci... Cambiare cosa? Hanno rotti i coglioni chi? Tutti, si riempiono le tasche e se ne fregano gli altri, basta. È tempo di cambiare. È tempo di cambiare, via tutti, sì, via tutti. Ok, dai, buona giornata. È tempo di cambiare, aspetta, c'è un travestito, che c'è una trans che sta mangiando brasiliana e nera come il buco del culo di un cammello, aspetta, te la passo. Sì, sì. Senta, signora travestito, lei che è venuta in Italia a inculare gli uomini bianchi, lei vota sì o no? Lei, questa travestita si chiama... Ma magari non vota... Com'è che si chiama? Allora aspetta, te la passo. No, ho paura che mi si sgagna, c'è la faccia da cannibale, so, voti sì o no? No, quei nonni. Ma scusami, amica mia, ma tu voti in Italia o no? No. Tu non voti? L'ho capito. Tu non voti o no in Italia? Brasiliano. No. Ah, non voti in Italia, sei brasiliana, che sei? Certo. Ma che sei, travestito? No, sono trans. Trans, prostituta? Sì, sta sotto il campanello, sta sotto un bigolo negro. Vabbè, adesso questo non era necessario spiegare. Ma questa allora, amica, questa mi sa che due bambini, ci sono dei bambini. No, bambini, lasciali perdere. No, sono dei miei amici. No. Signora Cruciani, c'è una signora che è un suo fan. Ma digli se digli che cosa chiedi, che cosa vota Maurizia. Ma voi votate sì o no adesso al referendum? Sì o no? Non lo votiamo. No, loro non votano, hanno detto. E dillo, gridano, noi non votiamo. Non votiamo, no, niente. Perché non votate? Non voto. Questa famiglia no. Aspetta, è Cruciani e la Zanzara, parla. Zanzara. Perché non votate? Perché? Chi devono votare? Dimmi. Che ne so, sì o no? Che ne so, dimmi tu, mica. Dimmi tu, che ne so. Ma io che ne so, mica ti consiglio cosa votare, amico mio. Se sei a favore di Renzi, voti sì. Se sei contro Renzi, voti no. Io io sono contro Renzi, loro voto no. Per forza devi andare a votare no se sei contro Renzi, se vuoi andare a votare. Questo ma ormai detto, il referendum è ridotto allora, così, dai. Tutti no votiamo, tutti no. No, io non ho detto di votare no, ragazzi, stiamo calmi, cioè. Ma adesso più aspetta, no. No, passami Maurizia, passami Maurizia, passami. Ma che posto è sta? Ma che ne so. No, proprio la classica ripassami Maurizia, il classico bar di Caracas. No, no, ragazzi, ripassami Maurizia, dai che... Maurizia! Dimmi, dimmi. Oh. Aspetta, c'è un signore qua con la barba bianca. Sembra Babbo Natale. Aspetta, no, c'è un ragioniere che sta mangiando qui un pasto di singolo. No, c'è una marchetta. Tutto qui basta al Parco Nord, sto procio. Aspetta che te lo passo. Ma è peggio di un bar di Caracas, sto posto. Chi è questo? Te lo passo. Ti dico, voti sì o no al referendum? Avanti. No. Devi dire, buonasera, signor Cruciani, vai. Buonasera, signor Cruciani. Voti sì o no al referendum? Voti sì o no? A cosa? Al referendum, tu non sai un cazzo. Al referendum, voto no. Voti no. Vabbè, ciao ragazzi, ciao. Maurizia, ciao. Ciao. Allora ragazzi, qui mi pare chiaro che... Oh, ragazzi, il popolo, hai sentito Parenzo? Cioè, incredibile. Se fosse per quel bar là, tutti no, Quelli che votano, questo è uno dei no. peggiori bar di Caracas, mi pare. Vabbè, ma che c'entra? Non sono renziani, no? Non lo so, mi pare... Ragazzi, tre anni fa Radio Belva, due cancellavano Radio Belva. Finiamo con due file di Radio Belva. Due file e basta, ci sentiamo domani. Ciao. Perché viene. Ma tu... se ti sei battuto per essere nelle liste, per essere un nominato. Non mi sono mai battuto, sì, io sono stare stato. Nelle liste, non ti... no, e non mai ti hanno battuto. Messo nelle liste. Non mi sono mai battuto. Ma dai, Vittorio, per niente. Dillo però. Ma tu dici delle cose diffamatorie. Ma io lo non sai. Mi sono mai... no, lo non sai, sono... volevi stare nelle liste di Berlusconi e non ti ci hanno ma messo. Ma non mi sono mai. Ma tazza di merda! Oh! No. Non ci sono mai voluto essere, non devi dirlo! No, non lo io! Allora fai una cosa, documentalo, ti denuncio. Ma lo so, dai. Ma ti piscio in testa. Ma faccia dai, di merda. Dai. Ma guarda se devo sentire un cretino. Ho fatto esattamente il contrario. Guarda Villaggio, che dice. Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra trasmissione. Voi cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi. Io sono più bravo di voi. Sì, vi mangio vivo. Certo. Oh, non rompete il cazzo. Rispettate la sorte. Qui lei rimane qua. Avete... Ma qual è il problema? No, il problema è che sei un coglione. Dillo che tu. Dillo che è un coglione quello. Che è un coglione fascista. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8:00. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.